Hashtag Autotrasporti. Buon pomeriggio da Andrea Ferro. In questa puntata della vigilia di Ferragosto andiamo un po' a diporto tra presente e futuro, inseguendo la rotta della sostenibilità delle infrastrutture come dei mezzi e dei sistemi di trasporto. Il concetto ormai è ben cristallizzato: l'efficienza della logistica e della mobilità dipende e dipenderà sempre di più dalla possibilità di trasferire persone e merci attraverso forme meno invasive rispetto ai territori e alla qualità della vita di chi li abita. Una sfida inderogabile che può dirsi intrapresa, una sfida indubbiamente molto impegnativa che richiede risorse e anche una programmazione concertata tra tutti i soggetti coinvolti all'interno di una logica di sistema. Per sostenibilità non si intende solo quella ambientale o quella economica, esiste anche la sostenibilità sociale, soprattutto in riferimento alle infrastrutture, quindi opere che favoriscano le pari opportunità tra i cittadini e riducano le marginalizzazioni. È stato questo il tema portante del G7 dei trasporti che si è svolto a giugno a Cagliari. Per quanto riguarda le infrastrutture, negli ultimi mesi si è parlato molto di ponti e di viadotti sull'onda dei fatti di cronaca, crolli e purtroppo anche vittime, come ricorderete. Tra le conseguenze anche lo stop ai trasporti eccezionali. Nelle scorse settimane, a questo proposito, il Ministero ha varato una direttiva per sbloccare una situazione pesante, in particolare in alcuni distretti produttivi. Ve ne abbiamo dato conto nelle precedenti puntate di Hashtag. Più in generale, la sequela di crolli ha portato alla ribalta la questione della sicurezza delle infrastrutture e la loro adeguatezza rispetto alle esigenze dei territori. A questo proposito, l'ultimo flash di cronaca arriva dalla provincia di Trento. A causa di un cedimento strutturale lungo la statale 329, nei giorni scorsi è stato chiuso il viadotto sul fiume Sarca tra Caderzone e Strembo. Secondo il servizio strade della provincia autonoma di Trento, il cedimento sarebbe stato provocato da uno smottamento. Il cavalcavia era stato costruito 10 anni fa. Lungo un'altra statale, la 372 Telesina, che in Campania collega Caianello a Benevento, e rientriamo così nel tema della puntata, a breve saranno realizzati 11 nuovi cavalcavia. Per la loro progettazione ANAS ha bandito un concorso di idee, potremmo dire a largo respiro, perché ai partecipanti è stato chiesto di concepire un tipo di infrastrutture da replicare sul resto della rete stradale ed autostradale di propria competenza. Insomma, un marchio distintivo in termini di scelte architettoniche, innovazione, sicurezza e sostenibilità rispetto all'ambiente circostante di fronte alle esigenze della logistica. I primi tre classificati del concorso dal titolo Reinventa il cavalcavia sono stati proclamati nelle scorse settimane con l'assegnazione dei premi in denaro 150, 75 e 50 mila euro. Per capire un po' meglio il senso di questa iniziativa ci siamo rivolti a Giovanni Magarò, responsabile ambiente, territorio, architettura e archeologia di ANAS. Cercavamo un'opera che fosse caratterizzata da elementi comuni e riconoscibili per denotare, marcare la nostra rete statale, cioè che diventasse anche un elemento, diciamo, di identificazione e riconoscibilità. E quindi, siccome si trattava di opere di attraversamento che potevano essere o realizzate ex novo, ma anche opere, diciamo, da realizzare per il potenziamento di infrastrutture esistenti, aveva un'importanza rilevante anche la cantierizzazione, quindi cercare e scegliere una tipologia strutturale e un sistema costruttivo corrispondente che potesse, diciamo, tener conto della realizzabilità anche limitando, diciamo, l'interferenza col traffico. Un modello di cavalcavia dunque originale, funzionale e sostenibile. Ancora Magarò. Un altro degli elementi su cui volevamo stimolare il mercato della progettazione, cioè le professionalità dei vari progettisti, era quello naturalmente della sostenibilità del progetto, del risparmio energetico. Quindi ci interessava che fosse valutato il ciclo di vita dell'opera e quindi i materiali che venivano impiegati, la loro possibilità di essere approvvigionati con forme, diciamo, di sostenibili nei trasporti, nella cantierizzazione, nel ciclo di produzione, e poi soprattutto che la vita utile del cavalcavia fosse segnata da possibilità di interventi, di manutenzione, di controllo fondamentali per avere sempre un'opera efficiente in condizioni di sicurezza. Poi l'intervento, appunto, non era rivolto esclusivamente agli aspetti strutturali, cioè non cercavamo soltanto, diciamo, un'opera che stesse in piedi, che avesse, diciamo, una sua funzionalità, ma cercavamo di coniugare insieme della triade vetroviana, cioè utilitas, firmitas e venustas, quindi oltre che è la funzionalità, ma che appunto avesse anche una fascia, una sua bellezza, una sua forma estetica associata alle capacità strutturali. E quindi anche il suo inserimento nel paesaggio. Dall'innovazione delle infrastrutture perseguita nel segno della sostenibilità a quella applicata ai mezzi di trasporto e alle buone pratiche di mobilità. Per stimolare idee ed esperienze, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, insieme a Italia Camp, ha promosso un concorso. Una giuria ha selezionato i 7 progetti ritenuti più originali, che sono stati presentati alla ex manifattura dei tabacchi di Cagliari in una mostra allestita in occasione del G7 dei Ministri dei Trasporti. Tra i 7 progetti, uno riguarda la ferrovia, in particolare i binari puliti e virtuosi, sui quali far scorrere persone e anche merci all'interno di un sistema di trasporti intermodale. Questa startup si chiama Green Rail, sostanzialmente si tratta di una ferrovia ecologica. Le traversine o traverse sono infatti realizzate con materiali riciclati, pneumatici, fuoriuso e plastica. Ci spiega tutto Cristiano San Marco e, come sentiremo, l'idea è già applicata in alcune parti del mondo. Il vantaggio di questa startup è dal fatto che loro utilizzano plastica e utilizzano copertoni e smaltiscono questi materiali e producono un rivestimento per il calcestruzzo per realizzare delle nuove traversine. Loro ogni chilometro di rete ferroviaria riescono a riciclare il 35 tonnellate di materiale di scarto. E l'utilizzo della gomma ha un vantaggio perché riduce del 30% il costo di manutenzione del binario stesso. In più, sopra queste traversine è montato un pannello fotovoltaico che dà la possibilità, quando il treno non passa, di poter intrappolare i raggi del sole e produrre energia da reimmettere all'interno del sistema ferroviario. Diciamo, Green Rail è già forte nel mercato internazionale, soprattutto nell'Asia e in Indonesia. Quindi è già È operativo già questo. operativo, all'estero è già operativo, sì. Da Da noi? noi questo bisogna capirlo. Tra i progetti premiati dalla giuria del concorso promosso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per segnalare le soluzioni più innovative ed efficaci a favore di forme di mobilità e integrazione nel segno della sostenibilità, non poteva mancare un veicolo, un'auto molto speciale, si chiama OS Vehicle ed è speciale perché è un'auto elettrica fai da te, nel senso che la startup fornisce a chiunque lo voglia acquistare un kit di montaggio da assemblare autonomamente utilizzando le istruzioni fornite e i pezzi contenuti appunto nel kit, un po' come si fa con un modellino o con un mobile. Gabriella Barone ci spiega come funziona. Si può trattare di un veicolo monoposto, 2 posti, 4 posti, quindi qualunque veicolo per qualunque utilizzo possiamo immaginare. Non si pone assolutamente in contrapposizione con quello che è il mercato dell'automotive tradizionale, ma piuttosto va a creare un nuovo mercato, perché data l'elevato grado di flessibilità e velocità anche, diciamo, di assemblaggio, si assembla solo in un'ora e di messa in produzione. Addirittura permette questo sistema di ridurre di un sesto i normali tempi, diciamo, dalla progettazione alla nascita, diciamo, di una vettura del mondo automotive tradizionale. Permette di allungare molto il ciclo di vita della singola vettura, perché ogni componente è del tutto sostituibile. Una vettura così ha un costo oggi tra i 13.000 e i 19.000 dollari. È un veicolo elettrico, velocità di 130 e un'autonomia di 120 km. Diciamo, di recente hanno lanciato anche un nuovo progetto per un veicolo autonomo. È italiano, è progettato e costruito in Italia. E i veicoli sono omologati, quindi possono ovviamente tranquillamente circolare. Chissà se alla stessa maniera sarà possibile realizzare un furgone, magari anche un camion. Lo sviluppo tecnologico marcia ad un ritmo ormai capace di prefigurare anche scenari inimmaginabili. Alla luce delle modifiche apportate al testo unico bancario, il Ministero dei Trasporti ha emanato una circolare che contiene una serie di chiarimenti sulla dimostrazione del requisito dell'idoneità finanziaria. L'impresa deve dimostrare di disporre ogni anno, sulla base dei conti annuali certificati da un revisore o da un altro soggetto riconosciuto, di un capitale proprio pari o superiore a 9.000 euro per il primo autoveicolo e 5.000 euro per ogni autoveicolo eccedente il primo. Il requisito può essere dimostrato anche attraverso un'attestazione rilasciata sotto forma di garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa in corso di validità. E per decreto ministeriale, nei giorni scorsi sono stati definiti gli standard di qualità dei simulatori per i conducenti professionali del trasporto persone o merci. Si tratta dei simulatori che vengono utilizzati nell'ambito dei corsi di formazione per ottenere l'abilitazione professionale. Con hashtag Autotrasporti oggi è tutto, grazie per la cortese attenzione, noi ci risentiamo lunedì prossimo alle 13.45. Da Andrea Ferro, buon pomeriggio e buon Ferragosto. Hashtag Autotrasporti.